tragedia. E mi ricordo del telefonato che faceva Armando a Paoletto. Come senti questo bacchio? A bomba. Ehi, già t'ho sentito prima. Bello forte. Hai detto che hai rimosso cosa? Un potenziometro, ho capito bene, un trimmer. Sì, ho attaccato un trimmer, la verità. No, ho attaccato un boh, il cazzo ne so io. Qualche guato ho attaccato un trimmer della AM modulazione. In questo Midland tu figura adesso, mi so. Un singolo sembra, ti giuro. Guarda. Io stasera ho cambiato però la capsula del salvetta qua. Lo senti? Sì. C'è un microfono a 10 e salvetta là, senti come mi è, c'è un culo sopra la sedia qua, qua, le piccole là, senti e c'è un distante qua. Attenuato a sentiero 1 ed è sempre forte, quello per le distanze va bene, molto bene. Sì, probabilmente il trimmer faceva da resistenza che limitava la modulazione. Un po' bella, io non è un migliore, ma è dato questa MFM, ci ha fatto potenziometri e poi c'è cussanti delle 4 memorie e cose del genere, se non mi ricordo il modello che sia, perché non si vede un cazzo, la verità, tutto quanto fatto meno, però esce veramente forte come una macchina, la verità. E sta parlando a voce bassa, ricordate, perché se sono le guarda, io sono in cuffie, mi ho le cuffie lanciate, lo figurate. Là, io sposto il microfono al tavolino, va. Figurate tutto quanto porta, però non girate. Guarda, io sto toccando le... per sentire qua. Ci ne scoprire che dove è centrale la qua, senti, con le unghie mi. Invece questo qui è cosa, il ricevitore. E questo è la tassa di sole. Ma sembra una mitraglia, come lo passi lì, va bene. Io sto parlando piano per non fare a bollo a casa. C'è il propaganda inserito in modo da alzare la modulazione. Ho visto che sono tutti andati via, io ho finito poco fa, va bene, bene. Aspetta che faccio sentire una cosa, va. 2 secondi che la prendo e te la faccio sentire, aspetta. Che stronzo vado a metterlo. Ci sei? Eia, vieni avanti. Allora, aspetta, vediamo se lo riconosci, là. Thank you. sentito? Cosa devo riconoscere? Senti? Birra, cazzo, come il coso, cazzo, come la spirapolvere. Ma cos'è? Cosa hai cambiato? Apparato, ma il microfono? No, pare che è sempre uguale, anche il microfono. Il microfono è sempre il mio, da Bluetooth. Io ho cambiato solo la capsula stasera, ma è una cosa allucinante. E non posso lavorare. Quindi figurati tu. In macchina quello spara forte, quando sei consegna le variabili in macchina ti fai sentire, sì, naturalmente in macchina si tira dietro un po' di casino della macchina, capito, la turbolenza dell'aria, il motore, oppure le asperità della strada, come questo quando sono in macchina mi ha detto che è rumoroso perché sente tutti i rumori ambiente, ecco, in poche parole. Sì, vabbè, ma no, come questo qua no, figurati, diciamo, io voglio fare una prova, vabbè. Casino, un bel casino. Aspetta, senti, ma ti do il cuore, aspetta. No, io non lo sento. Non me ne accorgo da qua, forse in cuffie. Comunque pare di aver capito che qua il centro banda, allora il centro banda dell'antenna dovrebbe essere, vediamo, allora sul 40 qua dice 1,1 e qua dice 1,2, sul 47 1,1 e qua dice lo stesso, praticamente in poche parole il centro banda di questa antenna è sul canale 1, non sul 20, per dire. Pensa che io l'avrei voluto sul 30, il centro banda sul 40, vabbè, comunque è ridusso. Marco, se non va bene, non è che stavo male, non intendo la verità. È come avere da uno, no, al 500 un'offerta, ma poi pretende un Ferrari, capito? Quindi devi capire che una circuitabile semplice non è che sia una circuitabile larga banda, per dire che ti piglia tutto. Se vuoi la multibanda, il discorso è diverso, che fa 10, 20, 40, 80, quelli che si trovano, cioè, ce ne sono parecchi, se ne vuoi. Il discorso è di spendere non per dire 80 euro, ma bensì 200 e qualche cosa, che fa tutto le gambe una presa all'altra e sei più tranquillo. Il discorso è così, ma per il momento va bene così come stai, la verità si ricca, è perfetto, non fa TV, non si è nessuno sedimentato, quindi stanno bene perlomeno, a meno che non piazzi 600 watt come pazzi e dei problemi, il discorso è così. Non per avere tutto mosso, diceva quello. Ehi, no, ma io mi accontento, questa rispetto all'altra è un altro pianeta. Ma poi il problema non c'è, anche se io c'ho attaccando il lineare, magari niente che abbia stazionarie, no? Usando gli 80 watt della radio, no? In meno SSB, accordo appena appena e elimino le poche stazionarie se ci sono usando la potenza massima. Il lineare ancora non l'ho provato qua, lo sai, il KL203. Quello è sporca, quel lineare è una caratteristica che butta fuori tante di quelle armoniche che non ne hai idea. È stato misurato in laboratorio da non so chi, è terribile, terribile. Infatti in macchina entravo nelle casse dello stereo. Va bene, c'è un filtro apposito per filtrare quel lineare, o almeno quel lineare di quel tipo. Quello di un filtro passa basso, naturalmente poi senti le casse dello stereo è un'altra cosa, no, del computer volevo dire, del computer, ma l'importante è non oscurare la TV e basta. Sì, vabbè, comunque sia, non te ne vai nulla, cioè usare il lineare per il televisore è come usare un granchio e fate mossicare, sale uguale. Quindi se vuoi modulare conviene stare come sei, al limite se vuoi usare i batti o ti metti i filtri, se no se la tocca in culo, il discorso è quello lì, come in tutti i condomini, non è che puoi andare oltre, tu in pratica ti dovresti sollevare di altri 2 metri in più per pompare un po' di più Marco, quindi te l'ho anche già detto, adesso penso di quando mi passi quel palo te lo pulisco bene e lo faccio nuovo come era originale, in modo che sia più alto e in modo perché quello pesa parecchio quel palo e ho visto che già rende bene, in modo che sei tranquillo e non disturbi nessuno e sei 2 metri più alto di quando andiamo alla TV, che la spatola è piano piano si pulisce, non costa niente, ci vediamo in garage, la puliamo bene quel palo lì, almeno sei tranquillo e non devi rompere il palo nessuno, altrimenti si pendiccia con lo sbuc, con alluminio, quello che è, ma... No Antone, quello anche se si pulisce non ha la zincatura. E a me piace poi avere tutta simmetria, no? No, adesso io sto così, chi ci mancherebbe? A meno che non faccia tanto ti guai da... che mi obbligano, allora gli dico, vabbè signori, volete il palo simmetrico, però mi fate mettere due tiranti almeno, almeno due se non tre, capito? Il palo nuovo, nuovo ed incatto, Antonio, conduce bene e basta. Comunque Antonio, anche prima, quando avevo quel palo da pseudo semitri, in realtà non li raggiungeva perché il palo usciva per un metro e mezzo circa, l'altra metà, l'altro mezzo metro non usciva perché sembrava fatto sotto a imbuto, aveva una specie di blocco per evitare che uscisse il palo, no? Tutto. Quindi in realtà io non avevo 6 metri di palo prima, avevo qualcosa tipo 5 metri e mezzo seppure, magari erano anche 5 metri. E con questa lo stesso, 3 metri e mezzo, io senti là. Mezzo, cioè, non ti preoccupare. Oh, di cosa che c'è il cazzo, se non piatto di qua mi sale quello sotto casa mia. Ascoltami invece, quanti sono i condomini lì che c'hanno appena sopra il tetto? Tutti, tutti 12 famiglie, vai fai 11 perché se n'è andata mi pare. Se n'è andato lui e se n'è andata la moglie perché credo che sia stata lasciata. Parole povere. Ora, e già schiccia. Capito? 11 famiglie, credo. Ascolta, io ho la centralina. Amplificata, nuova. Quindi in pratica sono 12 famiglie, giusto? Quindi si mettono a poter avere 50 antenne, quello che sarebbe una lì unica. E si piazza questa centralina e forse si mette un partitore anche all'esterno al limite, quello che se la piglia in culo, per dire 12 famiglie e il cavo direttamente scende giù, basta, non devi fare altro. Quindi te la piglia in culo 12 antenne, capito? In pratica si usa un'antenna, cioè due antenne normali, un'uscita unica e poi un partitore 6 e 6 e sono 12 elementi, basta, non ci vuole altro. E tutti per la televisione. Lo so Antonè, però noi adesso siamo in una situazione di... aspetta. Siamo in una situazione di anarchia perché l'amministratrice non fa niente, non fa più niente. Poi ognuno vuole la sua antenna. Io quando l'avevano proposta ero d'accordo per fare la centralizzata, però alcuni non erano favorevoli, capito? Piacerebbe anche a me perché noi sul tetto antenna non ne abbiamo più. Abbiamo un'antenna sul balcone, Antonio. Sarebbe bello averla su. Però adesso si vedrà. Ripeto, siamo in una situazione di anarchia passeggera. Oh, non che non ci fosse prima, Sì, vabbè, comunque io ce l'ho un amplificatore. Bello, l'ho provato, funziona anche bene, la verità. Tu dici due sole cose. Mettiamo la tela unica, primo, secondo, dopodiché si mette un partitore di quelli che vengono da qui come che ci vogliono tutti i columini là fuori. Senza da troppo in culo, basta. Basta che la alimentazione arrivi direttamente da condominio. È buco. Così si, tutti vedono la televisione. Vabbè, vediamo in futuro. Che palle qua, qua condominio. Anzi, qua mi sono stupito Antonio che non siano venuti a rompere le balle. Perché per esempio ci sono mille motivi per cui magari vedi un canale a quadratini, no? Di solito cioè avrebbero dovuto protestare da prima, ma nessuno mi ha cercato, quindi credo sia tutto a posto ancora. No, no, tranquillo, sono sul posto. Se la sua metà della prima figura adesso, quindi non ti preoccupare. Prenditi, comunque. Nel caso, a tu sto dicendo, c'è una centralina, te la sto regalando. Proponi di quella, fatta un primo, secondo, normale, vira, la bricome. Adesso tu non parla, poi tutti un patettore di quelli che sono un ingresso, mi sembra sono 4-5 uscite, l'altro là un ingresso 4-5 uscite, quindi sono eccetera eccetera, quello che è. Dico di tutto se la bianco, non è che spendi molto, cioè non tu, no, lui c'è loro per dire, non sono patetto che un ingresso è 12 uscite se la bianco. Io la centralina ce l'ho, la sto regalando perché me l'hanno regalata a me, è nuova, nuova e funziona bene. E quanto sto dicendo? Antone, ma non funziona così, no? Qua bisogna prima fare assemblea, poi decidono se prenderlo o no, poi devono fare l'acquisto, contante ricevuta, eccetera. Non è che si pigliano un partitore così di usato dal nulla. Qua c'è una prassi da seguire, ma tanto non ne vogliono fare, anche perché l'idea che se lo fanno credo che lo mettano sul gabbiotto centrale dove ho l'antenna io, e se lo mettono lo metteranno anche bello alto, bella alta l'antenna, e io non voglio altre antenne a fianco che rompono le balle. La mia antenna c'è la da 92, l'altra antenna che ho visto a fianco alla mia è arrivata 10 anni dopo, quindi la mia è lì e resta lì. Se hanno problemi glielo faccio presente, che io pago la tassa, quindi non mi interessa. Si mettono la parabola allora, che così che non disturba. Ah beh, quello sì. Questo come per la televisione, quindi bisogna pagare il canone, se no niente antenna. E non solo, se per caso fanno danno al cavo, tipo spillare l'antenna, capace anche gli porti in causa. Già l'altra volta hanno preso il cavo e l'hanno buttato verso sinistra, se ti ricordi bene. Buttato verso sinistra e stava tirando l'altro cavo di un altro. Eppure c'è un pensiero in testa. Secondo me può passare in fermo un attimo. Secondo me è tutto. Mezzo watt. Perché mezzo watt? Sì. e quando passo dall'AM a FM a banda laterale la potenza è bassa, devo alzare il trimmer. L'hanno fatta uguale, già non muovere il trimmer, ti volevo dire, c'era stato un forte vento con quelle burrasca forte, no? Dopodiché ho visto, ben dopo il cavo è buttato a sinistra, di sotto, dritto, aumentarsi che questo cavo stava tirando il suo cavo, no? Salgo su, punto il cavo era a sinistra e avevo messo il nastro isolante intorno al palo di palo TV di questa antenna, no? Parole, secondo me, è salito su, controllarsi l'antenna dopo il vento. Sto questo cavo estratto al suo palo della TV, ho fatto tutto e l'ha buttato a sinistra. Poi il cretino si è accorto che tirava il cavo e è salito a protestare, capito? Riesco a pensare a nessun altro se non a lui. Ma è stato solo così. Quindi figurati. A un certo punto per me è così. Sa perché da lui vi ci sa. Beh Antone, dove sono? Che ora è? Me devo te? 10, stanotte 10, però a dormire, da, sentiamo domani, a tentare di dormire, sentiamo domani Antonio. Sì, vabbè, sentiamo domani allora, c'è problema per quello. Cosa mi sa questa pare che me lo tengo io qua? Se non credo, sembra, boh. È allucinante. Cosa c'è fatto di radio? Vabbè, ci spero male Marco. Aspetta Antone, descrivimi questa radio, come fa? No, se faccio di male te lo faccio vedere direttamente, è meglio. E poi lo vedi, e ti faccio vedere che modifica l'ho fatto. Beh, vediamo, dai, se posso passo. So passo. Se non sbaglio si abbassa ancora di più là, vediamo. Eh no, è dovato, dai. Il mio sindacale è questo. Va bene, Antonio, buonanotte, ci sentiamo domani se riesco, ripeto. Ok, a domani, buonanotte. State bene, ci sentiamo un attimo.